Vendo tutto di Matteo Caccia. Mancano 2 settimane alla fine di questo programma. In 5 mesi ho venduto più di 100 oggetti, scritto decine di storie e ricavato quasi 5.000 euro. Ho conosciuto un bel po' di persone, spedito un sacco di pacchi e finalmente comincio a sentirmi più leggero. Quindi continuo, vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Capita, lo so, succede a tutti e stavolta è toccato a me. Io però ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela, la vendita è aperta. Oggi vendo un supporto per iPod. Crescendo dovetti sacrificare la passione per la musica per seguire tutto questo, per continuare la tradizione familiare e per non gettare al vento tutto ciò che finora era stato costruito dai miei predecessori. Ho studiato, mi sono diplomata, laureata e ho occupato il posto che da sempre portava il mio nome nell'organigramma dell'azienda, al fianco di mio padre. Oggi però ho deciso di modificare il mio futuro, di ridare nuovamente voce alla mia passione. Una manciata di polipropilene di colore blu. Questo è l'oggetto che metto in vendita. Lo faccio perché ho deciso di liberarmi dai doveri familiari. Ho deciso di rincorrere la musica e perché nello scorso mese di aprile, con un po' di sana pazzia, ho fatto domanda di iscrizione al conservatorio. Vendo tutto ciò per realizzare il mio sogno. La manciata di polipropilene ha un valore commerciale pari a 49 centesimi. Per me, invece, ha un valore inestimabile. Marta, che cosa si prova a sentire il proprio racconto letto alla radio? A parte che ho il cuore in gola, però è una cosa... Brava, più vicino al microfono innanzitutto, okay. Col cuore più vicino al microfono anche. No. Allora, Marta Scarabelli, che ha partecipato al concorso e che segue attivamente anche attraverso il Facebook, giusto, il programma, oggi è venuta qui da Brescia, mi pare. Bergamo. Da Bergamo, per comprare uno dei miei oggetti, che è la maglia da pallavolo. Sì. Quindi puoi testimoniare, ad esempio... L'ho presa, lo scambio è venuto. Lo scambio è venuto. Ho pagato. Hai pagato, quindi è tutto regolare. Marta però è venuta qui e oltre ad avermi portato via la maglia da pallavolo, mi ha portato un regalo. Un paio di bacchette da batteria. Un paio di bacchette da batteria, che sono queste. Facciamole sentire, Paolino. Senti, quando si dice che uno ha il ritmo nel sangue, eh? Però mia nonna me la diceva. Perché secondo me tu c'hai un po' il ritmo nel sangue e tu ti convinci che nella vita farai il batterista. Marta invece, che in teoria prenderà il posto, come tutti gli ascoltatori di Radio 24 che hanno aziende di famiglia, prenderà il posto del papà, degli zii e del nonno, in realtà ci si è messa in testa sta roba che vuole fare la musicista. Sono decoccio, sì. Sei decoccio. Mi ha regalato queste bacchette per la batteria perché uno dei miei desideri è quello di imparare a suonare la batteria. Si è anche offerta di farmi un corso, purtroppo c'è solo un problema logistico. È che niente, cioè venire fino a Brescia tutti i giorni... Che non è così lontano, eh. Che cosa non è così lontano? Bergamo. Da Milano? E dipende a che velocità guidi. Ho capito, ma sarà comunque almeno un'ora di macchina. Ma va! Ma dai, ma ci sarà un altro che fa un corso qui vicino a Piazzale Lotto, ma dai! Ma di sicuro? Ci trovi? Senti, queste bacchette come si usano? Prima mi facevi vedere tipo... Pollice e indice stretti fanno il fulcro. Chiudi le dita. Sì. Pollice all'interno. Sì. Tipo moto. Tipo? Moto. Ah, moto, tipo la moto, moto, ok. E poi si suoni, batte. Poi picchi. Senti Marta, quindi da grande fai la musicista, tu, abbiamo detto. In teoria, in pratica, si vedrà a settembre. Quindi, quando ho l'esame in conservatorio. Come funziona questo esame in conservatorio? L'esame ha dei... ci sono dei posti liberi che si vanno a occupare in base alla graduatoria che ottiene questo esame. Ma che cos'è l'esame? Devi suonare? Dovrò suonare determinati pezzi che ancora non so. Ma batteria, percussioni? Un po' di tutto, xilofono, timpani, un po' tutte le percussioni. Insomma, è a scelta l'esame, decidi tu cosa portare. Verrò valutata sulla prestazione, mi daranno un punteggio. E dopodiché si farà una graduatoria e passano il primo. Ma quanti? Non si sa. Non si sa niente. No, non si sa niente. Ma che conservatorio è? Dov'è questo conservatorio? A Brescia, non diciamo. Ah, non Brescia, non mi fanno entrare. Esatto. Ma non ascoltano Radio 24, perché conservatori ascoltano so. Radio 3, figura, musica classica tutta il dì, eh? E via di Radio 3. Quindi non si sa quanti ne prendono. No. Però l'unica cosa che si sa è che se arrivi a pari merito con un altro più giovane di te... Passa il giovane. Ma sto paese si bada sui vecchi. Una volta che uno può avere voglia da anziano, cioè anziano, tu hai 26 anni, quindi... Non sono da buttare. No, Marta, direi di no. Una volta che uno però potrebbe avere un vantaggio per il fatto che, perché alla fine non è che uno ha 15 anni sa che vuole fare il musicista, lo deve elaborare, sì, giusto? Un po' come te. Senti Marta, io non voglio tenerti qui tutto il giorno, ti voglio chiedere due cose prima di lasciarti andare, visto che oggi vendo un supporto per iPod che è stato un pochettino un acquisto che io ho fatto per cercare di venire incontro a un problema che io ho, che è il ritardo, che sono sempre in ritardo e quindi mi svegliavo tardi. L'altra cosa che volevo chiederti però è questa: ma perché la gente compra la mia roba? Cioè, ma perché ti sei presa la mia maglia da pallavolo? Per avere un ricordo della trasmissione e per avere un oggetto che potessi ancora utilizzare. Avendo giocato un po' a pallavolo e facendo qualche partita qua e là ogni tanto con le vecchie compagne di squadra, almeno me ne infilo e via. Marta è una precisa, cioè è una che arriva sempre puntuale. Infatti mi diciamo, tu sei mai in ritardo? No. No, lei arriva sempre puntuale. Però ci sarà qualcuno all'ascolto a cui è capitato di arrivare in ritardo, ma non di arrivare in ritardo una volta semplice, come capita magari qui in redazione a qualcuno che ha problemi con gli orari. No, no, parlo proprio di una volta in cui avevate un appuntamento molto importante e avete perso un'occasione perché siete arrivati in ritardo. 800 24 0024 oppure 349 238 6666. Ad esempio, prima Tiziano raccontava che lui era quasi un fenomeno a basket, cioè eri forte a giocare a basket e ha sbagliato il giorno in cui c'era la selezione, una partita molto importante, è arrivato il secondo giorno. Lui giocava nella squadra A, il secondo giorno giocava la squadra B e lui ha giocato nella squadra B, però segnando 40 punti. Ebbene, non ha vinto perché è finita 106-6, mi dice una roba del genere, però non è diventato un giocatore di basket. 800 24 0024 oppure 349 238 6666. C'è gente che riesce ad arrivare in ritardo a colloqui di lavoro e magari la loro vita avrebbe preso quella piega lì, ha preso quella piega là. 800 24 0024. Poi però c'è un appello che io vorrei fare prima della fine di questo programma a tutti i consulenti che sono all'ascolto. Sapete la passione che io nutro nei vostri confronti. Voi siete sempre in giro, avete un sacco da fare, robe da dire, gente da consulere. L'infinito di consulente. Aia, sono entrato. Marta, no, stai qua. Qual è l'infinito di consulente? Aiuto. Benissimo. Avevo 4. Benissimo. In cosa? In consulenza. 800 24 0024. Non solo se sapete qual è l'infinito del verbo consulere, ma soprattutto se siete dei consulenti e vi siete giocati un affare incredibile perché siete arrivati in ritardo. Insomma, quando avete perso un'occasione per essere arrivati in ritardo, la chiamate e la raccontate. 800 24 0024. Oppure 349 238 6666. Parliamo dei miei ritardi e del mio oggetto. Per vederlo, radio24.it. Per sentire la sua storia, state lì. Il supporto per iPod. I Love. Supporto e sveglia per iPod, colore bianco. Casse altoparlanti e sveglia a doppio allarme, dotato di uno shaker integrato che vibra sotto al cuscino. 10 modalità di utilizzo da iPod, radio FM, citofono, shaker, iPod più shaker, radio FM più shaker, buzzer e shaker. Grande display di facile lettura digitale con 10 livelli di controllo luminosità. Ottimo per chi la mattina è duro d'orecchi e preferisce vibrare. Valore commerciale 67 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800 24 0024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Ci sono oggetti che hanno molte funzioni, ma che si usano per una sola. Per esempio, il mio primo orologio digitale Casio, di quando andavo alle medie, e mi sembrava di essere grande perché ce l'avevo al polso. Ecco, quello poteva fare da calcolatrice, da cronometro e da cronografo, che al tempo già era una gran cosa. Eppure per me, alla fin fine, era semplicemente un orologio. Ma, ad esempio, vogliamo parlare delle cose che potremmo fare con il computer. Cioè, alla fine io lo uso come macchina da scrivere e per vedere i video su YouTube. Se penso che con un affare come quello si mandano avanti intere aziende, ma viene male. Ma anche il mini pimer, ad esempio. Cioè, a vedere le istruzioni, l'unica cosa che non puoi farci è il caffè. Eppure io ci faccio solo e soltanto il frullato di frutta, tra l'altro da giugno a settembre e poi lo ritiro. Questo supporto per l'iPod, per me, è una sveglia. È solo una delle sue 100 funzioni, però per me è quella che conta di più. Vedete, io ho dei problemi con lo svegliarmi. In tutti i sensi, devo dire. Ho perso treni, lezioni, esami e pure fidanzate per via della mia incapacità di sentirmi sveglio. Ho sempre cercato lavori che mi consentissero di dormire a lungo, di alzarmi senza traumi e soprattutto di avere un buon margine di errore. Sì, perché io non sento la sveglia. Cioè, non è che sia sordo, eppure c'è qualcosa nel mio inconscio che mi chiede di rimanere nel mondo dei sogni, perché è il mondo più bello che c'è, quello per cui vale la pena di vivere, quello più facile, dove le cose non dipendono da te, dove non devi darti troppo da fare. E invece alla fine vivere tutti i giorni è faticoso, no? Lo sanno tutti, è faticoso. È per quello che quando si è bambini si ha paura di addormentarsi, mentre quando si cresce si ha paura di svegliarsi. Vabbè, fatto sta che per tirarmi in piedi ho sempre avuto bisogno di una strategia tutta mia. E cioè, 3 o 4 sveglie che suonino a distanza di 3 minuti l'una dall'altra, in differenti tonalità e a giusta distanza dal mio letto. Non tanto vicine da essere spente senza alzarsi, non tanto lontane da ridurne il suono. La radiosveglia che ho venduto a febbraio era bella, ma la musica la mattina a me fa da ninna nanna, quindi non l'ho mai realmente usata. Le svegliette da viaggio, quelle sono molto carine e buon prezzo. Ecco, quelle me le mangio a colazione invece. Quando suonano mi trascino e le spengo facendole cadere. Non ce n'è una che sia durata per più di 3 mesi. Questa qua invece è solida, ha un aspetto serio e una suoneria davvero lancinante. Ha sempre funzionato molto bene per me. Certo, poi non si sa mai, eh. Il mio desiderio di dormire a volte è tale che possono suonare tutte e 3 le sveglie. Ecco perché, ed è la soluzione finale, ho deciso di rivolgermi alla magia della funzione vibrazione del telefonino. Il suo suono non è più forte degli altri, ma per qualche motivo quando sento vibrare il materasso non posso non svegliarmi. Tengo sempre il telefono nel posto vuoto del letto. La vibrazione del telefono quando parte la sveglia si trasmette alla mia testa con tale forza ed efficacia che non c'è verso di riaddormentarsi. E questo ho imparato che è un bene. Sì, è meglio stare svegli durante il giorno, perché potrà sembrare banale, ma è meglio non essere assenti quando c'è da essere presenti. Senza l'iPod questa arnese non mi serve praticamente a niente. Ora che uso il telefono per svegliarmi non serve più nemmeno la sua funzione di riserva, quella di sveglia, che avevo scoperto dopo una situazione davvero molto delicata. L'appuntamento che stavo per mancare per mancanza di coscienza era un funerale. Era il funerale di un mio amico. La storia è triste e raccontarla non serve. Quello che non posso negare è che una parte di me a quel funerale non ci voleva andare. L'amico ritrovato e poi successivamente perso era un compagno di giochi d'infanzia, che solo di recente avevo riscoperto. Un po' come capita quando le proprie famiglie prendono strade diverse quando sei piccolo. Eravamo scomparsi dalla vita l'uno dell'altro, da parecchi anni ormai, e ritrovarci era stato piacevole. Lui era già malato, stava facendo pace con il suo breve orizzonte e incontrava amici e parenti che non vedeva da tempo. Quando il decorso del male ha avuto termine, io non ero pronto, o meglio, non ero pronto come lo era lui. E devo ammettere che il funerale l'avrei perso volentieri, anche se non si dice e soprattutto non si fa. Mi ero comunque organizzato svegli e vestito e avevo la mia scorta di pazienza per ascoltare il prete. Avevo la sveglia che fa drin, quella che fa pit pit e quella che fa un pit pit ancora più acuto. Insomma, non potevo fallire. Credevo. E invece niente. Non le sentii. Quella mattina non mi svegliai e non ce l'ho fatta. Ho fatto la fine di Hugh Grant nel film senza essere in un film. L'unica cosa che mi consolò è che in fondo non mi aspettava nessuno, solo lui. Quando sono arrivato in chiesa non c'era più nessuno, e nemmeno al cimitero. Ero talmente in ritardo che i giardinieri avevano già finito di lavorare attorno alla lapide. Non c'era tanto da fare, quindi mi sono messo lì di fianco a lui e gli ho parlato. Abbiamo chiacchierato un po' di tutto, e ho potuto dirgli che mi sarebbe mancato. Sì, alla fine è stato meglio così. Se ci fossero stati gli altri, sarei stato zitto alla fine. Siccome però la vita non ti aspetta, quel giorno ho capito che dovevo trovarmi una sveglia nuova. E questo supporto per iPod, che fa da sveglia a vibrazione, l'ho comprato la mattina dopo. Perché è vero che faccio fatica, ma stare da solo non mi piace. E a volte ti accorgi che è tempo di svegliarti. Che poi è quello che mi ha sempre detto Giulia, e in fondo aveva ragione. Quindi, chi si sente un po' sedato, si prenda questo aggeggio. Oggi, nonostante tutte le albe che ho perso, lo metto all'asta. Il suo valore è di 67 euro, la base d'asta sono 99 centesimi. Se avete perso una grande occasione per essere arrivati in ritardo, 800 24 0024. Sawn in half by the passage of time. Allora, c'è un delirio per la storia del consulente. Fare consulenze, uno mi dice. Consulente è un sostantivo, non un gerundio. Enzo taxista e io non taxo. Vabbè. Consigliare, altrimenti. L'infinito di consulente è consultare. Ragazzi, mettetevi d'accordo e che mi chiami un consulente che lo sa e me lo dice. Veniamo invece alle volte in cui si è persa una grande occasione per essere arrivati in ritardo. Andrea D'Alecco mi scrive: Lisbona, mezza maratona. Viaggio a Lisbona per la corsa preparata con cura e la domenica mattina sbagliavo il luogo di ritrovo per la partenza. Arrivavo troppo tardi al luogo prefissato e saltava la corsa. 800240024. Non abbiamo molto tempo, quindi vi chiedo di essere veloci e andare subito al punto. Quella volta che siete arrivati in ritardo e avete perso l'occasione. Andiamo a Verona da Enrico. Pronto Enrico? Pronto ragazzi, ciao, ciao Marco. Ciao, allora, sono da solo e mi chiamo Matteo, però se vuoi, figurati. Io non sono da solo, perché io ti faccio un po' di casino, siamo un po' di persone qua. Senti, comunque, dimmi, vai subito al punto. Dunque, vai. Ho perso un lavoro, un campionato italiano, un campionato del mondo e poi se vuoi ti faccio un libro. Io purtroppo con ritardo vivo e non so cosa fare. Dimmi di campionato italiano del mondo di cosa? Karate. Ah beh, certo, come non... Cioè, sì. L'hai detto, come dire, era scontato che fosse karate. Che lavoro hai perso invece? Ho perso un bellissimo lavoro come consulente aziendale 4 anni fa per un ritardo di 25 minuti. Mi hanno sbattuto la porta in faccia. Ma scusami, perché tu lavoravi per un'azienda oppure facevi il... No, dovevo fare le scarpe dell'azienda in cui stavo lavorando e giustamente mi avevano fissato l'appuntamento per il colloquio, era il terzo colloquio, quello definitivo, in cui c'era da firmare il contratto e... Purtroppo è andata. Esatto. Enrico o Marco, come tu comunque ti chiami, ti ringrazio e ti saluto. Ciao, buona giornata. Ciao, alla prossima. Andiamo a Pavia da Luca. Pronto? Ciao Matteo, buongiorno. Ciao Luca, buongiorno. Tu io cosa ti sei giocato? Completamente l'opposto, vado proprio velocissimo. Vai. La storia è lunghissima e dobbiamo tagliarla. L'opposto nel senso che il ritardo per un colloquio di lavoro all'estero mi ha permesso di stare più tranquillo, realizzare un pochettino più di cose e il giorno dopo mi hanno fatto un nuovo colloquio che mi ha poi permesso di poter lavorare appunto in questa azienda. Quindi è un vantaggio delle volte. Il ritardo. Sì, un gran vantaggio, anche perché avevo solamente una mezz'ora di tempo, altrimenti la sera, invece passando una notte in albergo, rilassandomi tutto, il giorno dopo ho avuto la possibilità di prendere questo lavoro. Luca, grazie mille, sì, buona giornata. Portare a casa anche te. Ciao, ciao, alla prossima. Portare a casa, sta fermato su portare a casa. Andiamo da Davide della provincia di Milano. Pronto Davide? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Ma bene, dai, tu come stai? Abbastanza. Andiamo al dunque. Allora, vabbè, innanzitutto come tutti sarò un po' agitato. Tranquillo. Niente, io qualche anno fa stavo con una ragazza, sì, che faceva un Erasmus in un paese europeo. Io purtroppo però stavo ancora a Milano, cioè sto tuttora, sì, a Milano per carità. E niente, ci siamo incontrati a Londra e diciamo la domenica sera prima di ripartire abbiamo fatto un po' tardi, un po' per colpa nostra, un po' per colpa dei mezzi di trasporto. Morale a favola, avevamo l'orario a una mezz'oretta di distanza l'uno dall'altro, lei per tornare dove faceva l'Erasmus, io a Milano, sì, e io sono tornato a Milano, lei è rimasta a Londra un giorno in più. Ma scusami, ma ti sei giocato qualcosa con questo oppure? Ma no, diciamo che mi sono giocato un po' la reputazione, non ho fatto una bella figura diciamo a casa sua, perché comunque... Com'è finita adesso? State ancora insieme oppure? No, ovviamente no. Ovviamente no. E forse anche per colpa di quel ritardo lì, o perlomeno giochiamocela così. Grazie Davide, alla prossima. Ciao Matteo. Ciao, grande. Stai bene. Ciao Matteo, per i tuoi sogni io sono un istruttore subacqueo. Vorrei portarti sotto il livello del mare. Il tempo corre, il programma finisce fra 2 settimane. Sono Michele da Recanati, non ho internet e comunico solo con il telefono. Comunque possiamo fare qualcosa. Ciao, grazie. Va bene, e allora facciamo qualcosa. Sono le 16:27 minuti, grazie a tutti. A Laura Faggin, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi, Stefano D'Andrea e Paolino Corleoni. Grazie anche a Marta che è venuta addirittura da Brescia o da Bergamo, ancora non ho capito, per prendere la maglia e portare le bacchette. Il supporto per iPod è sul sito di Radio 24. Domani invece vendo una sedia da scrivania. Voi, se non avete una sveglia, compratevene una, che alla fine la mattina presto è sempre la mattina presto. Love, love, love.